24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Io sono convinto che se adesso se andasse a votare potrei essere rieletto, perché stando per strada mi sono reso conto che il consenso su questo tema, perché tutti hanno avvertito come una schifezza quello che mi è accaduto, almeno nella città di Napoli, si possa ribaltare. Il prefetto di Napoli ha ricevuto comunicazione della sentenza e dunque procederà agli adempimenti di legge di sua specifica competenza relativamente alla sospensione del sindaco De Magistris. Qualcuno mi chiede che io mi dovrei dimettere perché una sentenza di questo tipo mi ha condannato. Io credo che guardandosi allo specchio e provando vergogna quei giudici di quel tribunale si dovrebbero dimettere. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS Marco De Marco, napoletano, a lungo direttore del Corriere del Mezzogiorno, editorialista del Corriere della Sera. Ma si può, tu segui la vicenda dall'inizio, si può accettare una posizione come quella di De Magistris? No, intanto buongiorno. Non si può accettare ed è paradossale, non c'è uno che lo difenda, tranne se stesso, forse per ufficio i componenti della giunta. La frase che ho sentito, potrei essere rieletto, sì. Io non so che calcoli faccia. Ecco, tu che hai il polso della città, è una cosa che sta nell'ordine delle cose oppure no? Ha un senso? No, non sta nell'ordine delle cose, lo posso dire con quasi assoluta certezza, perché basta ricordare alcune cose. Lui promise una rivoluzione sull'immondizia, la realtà è che perdiamo 10 milioni di premialità europea perché Napoli non ha mantenuto gli impegni sulla differenziata, 10 milioni. 10 milioni. La Coppa America, che fu il suo grande... Che cosa capita adesso sulla Coppa America? Vabbè, quello fu il suo grande tentativo di rilancio della città. Io per la verità scrissi che mi sembrava un grandissimo imbroglio, e è stata aperta un'inchiesta. Oggi sì, c'è la notizia dell'avviso di garanzia a lui, al governatore della regione Campania. Perché? Perché lì tutto è stato organizzato male, abbiamo regalato 10 milioni agli americani per fare 4 gare nel golfo, cioè una cosa veramente ridicola. Poi le piste ciclabili, altro suo cavallo di battaglia, anche quelle costruite davanti a muri, sotto a ponti invalicabili. Insomma, quindi una gestione davvero molto molto complicata. Poi c'è la questione di Bagnoli, scusa, quella più clamorosa forse è quella di Bagnoli, il sito dell'ex Istal Sider, la società è fallita, l'area è stata commissariata, c'è un'inchiesta in corso, cioè dovunque tu volti, lo guardi, trovi un disastro. Ecco, ma se tu dovessi dare un giudizio storico del passaggio di molti pubblici ministeri alla politica, di Pietro, Ingroia, eccetera, che giudizio daresti? Negativo. Ma sarebbe bene rendere difficile per legge questo passaggio? Aiuterebbe la chiarezza? Sì, diciamoci la verità, però la legge poi crea solo altri problemi. Vediamo la legge Severino, per esempio. E oggi io non ne trovo uno che la difenda. Ma com'è possibile? L'hanno votata quasi tutti questa legge, anzi, se non ricordo male, l'hanno votata tutti. Ora tutti a dire che non funziona. Quindi, e poi alcuni provvedimenti già ci sono, per esempio c'è il codice deontologico dei magistrati. Ci dovrebbe bastare. Che gli impedisce di fare quelle che hanno fatto De Magistris o... Quando Renzi dice che bisogna tornare al primato della politica, cosa significa secondo te? Ha ragione intanto? Sì, secondo me c'ha ragione, perché ogni tentativo di trovare una scorciatoia delegando appunto a queste figure che poi diventano quasi mitologiche, ieri Di Pietro, oggi De Magistris, e poi invece cadono, fanno la caduta di Fetonte, di fronte a questo spettacolo secondo me, insomma, il ritorno alla politica, alla responsabilità della politica. Ecco, ma Marco, tu hai sentito la spiegazione del caso De Magistris fatta da Travaglio, da Santoro? Sì. Beh, insomma, lì c'è intanto mi pare che sia netta una presa di distanza dal punto di vista del rispetto appunto della legge. Poi c'è una giustificazione di fondo, nel senso che loro ritengono che De Magistris sia vittima, sia stato, insomma, questo è tutto francamente molto opinabile. Certo. C'è un'associazione vittime di De Magistris quando era magistrato, che conta in Calabria, che conta migliaia di iscritti. Perché De Magistris quante persone ha, nella sua carriera, ha messo in prigione? In realtà bisogna distinguere questo. Lui lo chiamiamo Gigina Manetta, le manette. In realtà lui non è uno di quelli che ha fatto grandissimo uso delle manette, però ha fatto grandissimo uso, e un uso scorretto a giudicare dal giudizio che ne dà la stessa magistratura, delle inchieste, cioè ha esercitato il potere giudiziario in maniera non formalmente corretta e forse anche sostanzialmente non corretta. Quindi su questo c'è sta poco da difenderlo. Grazie Mario. Mario, tu sì. Cosa pensi di questa risposta di De Magistris alla sentenza? Io penso che il tempo è galantuomo, visto che quando ero vice direttore a Panorama feci personalmente un servizio sul metodo Genchi e De Magistris, e si vedeva chiaramente che era una pesca a strascico illegale, come poi si è dimostrato. Quindi è arrivato al dunque. Posso aggiungere una cosa? Sì. Fummo in pochi però allora a scrivere queste cose. Vabbè, ma il conformismo anche della stampa. Oggi tutti dicono è successo questo, è troppo comodo oggi però. Certo. Tu Pietrangelo? E tutti questi rivoluzionari che si danno alla politica e poi si rivelano nell'esatto contrario fanno un fatto, però l'altra questione forte che quantomeno da Roma in giù si deve porre è il perché mai la politica procuri uno spavento tale alla gente per bene al punto che nessuno più vuole scommettere in un destino nella politica. Cioè chi fa politica ha paura o di sporcarsi o di essere rovinato o di essere falciato poi dalla magistratura. Esatto. Abbiamo una telefonata al volo. Alberto. Roberto. Pronto Roberto? Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Rapidamente. No, sono d'accordo con il modo di procedere del sindaco perché ciò che è successo è un poco strano, diciamo, dal punto di vista operativo. Insomma, lei difende il sindaco De Magistris, è questo il punto? Sì, lo difendo essenzialmente. Va bene, grazie. Vedi, c'è Marco, sei ancora al telefono? Eccomi. Ecco, sentito. Sì, io, cioè, qualcuno pure ci sarà a cercarlo col lanternino che difende De Magistris. Il paradosso qual è? Il paradosso è questo, che ad essere formalisti al massimo, lui c'ha ragione, nel senso che la legge non gli chiede di dimettersi, la legge lo sospende. Lo sospende, infatti. Lo sospende. Quindi lui è legittimato nel sostenere che non vuole e non si dimetterà. Vabbè, vedremo come va a finire, insomma. Grazie Marco. Intanto grazie. Franco da Bari ci dice: c'è un buon esempio di magistrato in politica, Emiliano. Sa perché? È partito in silenzio. Va bene. Franco da Bari, ascoltiamo anche questa opinione. Questa è nota come la settimana della moda. Giuditta è un modello scintillante, intimo, malinconico e sincero. Non hai la minima idea dello stile e del senso della moda? Ok, ora Chanel, hai un bisogno disperato di Chanel. Qui i guardaroba sono un disastro. Apri il tuo armadio e scegli quel maglioncino azzurro infeltrito. Quell'azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro. Indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti, in mezzo a una pila di roba.

e poi io li ho osservati per bene. La madre era come placida a contemplare un lago tutto suo. Il padre, invece, tenendo in braccio la bimba, era bello, ma proprio bello. Bello nel senso che non è che irraggiava bellezza, la emanava, e tutto si concentrava in quel fantolino, in quel sorriso di bimba che ad ogni sorriso faceva sprigionare cristalli. Erano indiani. Una bellissima scena di famiglia indiana, da dove ho capito che cosa ne veniva fuori. Che quel padre così bello, raccogliendo tra le braccia la bimba da cui sprigionavano sprizzi di sorrisi che diventavano cristalli di neve, era Shiva, e la bimba era Himalaya, e la madre era la grande madre India, che riusciva a restituire a Roma quegli dèi che nei secoli sono andati via. Certo che la la metropolitana con fantasia è un'avventura ogni giorno. Emanuela da Modena intanto ci scrive: che meraviglia lo stilista siciliano, energia, talento e positività. Saluti. Beh, ci fa piacere, e sentiamo le nostre bolle. Allo stolto non viene mai in mente che la fortuna e il merito si tendono la mano. Avessero la pietra dei filosofi, mancherebbe il filosofo alla pietra. Beh, questo è il Fausto, e uno dice, vabbè, sei che è impazzito. Forse sì, per carità. Sai, troppo Mix 24. Sì, fa male. Ma perché? Perché mi sembra che siamo tornati al 600. Allora, leggevo stamattina un pezzo su Eurointelligence, che è un bel sito molto informato, un sito professionale di economia ovviamente europea, e a un certo punto il titolo era Germany versus the sinners, cioè la Germania verso i peccatori. Hai capito qual era il senso? Allora, insomma, pensateci bene, in fondo è una storia che viene da lontano. Io vi propongo questo passaggio indietro, che è un passaggio nel presente. I paesi protestanti non accettano più il principio di solidarietà per la cattolicissima Spagna del Cammino di Compostela, per l'Italia del papato spendi e spandi, per la Grecia dei coriacei ortodossi, ma pure papato, quelli alla fine, spendi, no? Spandi, per la Francia giacobina, ma pur sempre cattolica, per il Portogallo del segreto di Fatima. E sono tutti peccatori, quindi l'Europa è spaccata in due come nel 600, e con la comparsa dirompente del luteranesimo, di questa predicazione diversa rispetto a quella cattolica, e poi così è successo che la parte centro-settentrionale protestante oggi è ancora per il rigore, l'austerità e così via, mentre quella meridionale cattolica è per la mitezza delle regole di bilancio. Chi vincerà? Lo vedremo. Secondo te Buttafuoco chi vince? Il samurai. Il samurai adesso. Con il ragazzo laggiù, con lampi di blu, corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità. Mi sono quasi offeso con la Sardegna, con la Tardelli adesso, perché Sardelli non è, ma no, io sono sardo e basta. Perché in regia mi faceva Gig Roboe. È Tardelli, sì. Questo è uno dei momenti. No, ma c'è lo spirito da maestrina. Oggi, capito? Ma questo è uno dei miti, delle icone della mia infanzia, e tu hai capito perché io sono ridotto così. Allora, samurai, ma soprattutto Abenomics. Perché? Perché la Banca del Giappone ha appena acquistato 3,5 trilioni di yen. E è una mossa che serve a centrare l'obiettivo di alzare l'inflazione al 2%. Sapete tutti che in Giappone. Il Giappone viene da 20 anni di deflazione, sì. E come dicevamo ieri, ci sono un po' di preoccupazioni sullo yen, che è troppo debole sul dollaro, e i costi per le piccole aziende che stanno crescendo. Così Shinzo Abe ha varato un piano di aiuto per queste imprese. Stamattina Kuroda, che è il governatore della Banca del Giappone, ha detto in realtà che lo yen troppo debole non è un danno, anzi è un vantaggio. Basta che sia, diciamo, prezzato realisticamente poi sul mercato e sui fondamentali dell'economia. Vedremo che cosa succede. Sai che cosa mi impressiona a me del Giappone? Che agiscono. Fanno. Bene. E allora anche noi facciamo. Oggi, come tutti i venerdì, da oggi fino alla fine del ciclo, È il momento della nostra posta del cuore. È arrivata una lettera molto interessante. Ho 38 anni, un figlio, e dopo il divorzio mi ero rassegnata a non innamorarmi più. Invece è successo, un compagno di scuola ritrovato su Facebook. Abbiamo cominciato a frequentarci, poi in una notte di insonnia mi sono affacciata sul suo profilo WhatsApp e, sorpresa, ho letto quella maledetta scritta: ultimo collegamento all'1:24. Ma non doveva andare a letto presto? Da allora ho preso a scandagliare i commenti di ogni suo post e i profili di tutte le possibili rivali. Poi su Instagram a cercare di capire se la biondina della foto di giugno è la stessa del like della settimana scorsa. Incrociando i dati ho scoperto più di una balla. Lo so che è folle, patetico, ma io sono ossessionata. Forse l'unica soluzione è lasciarlo. Questa è la lettera di Paola Pietrangelo. E qui ci vuole un esperto, uno a caso, eh? Mi sei venuto in mente tu, perché Pietrangelo, tu che sei sempre su Twitter e mi scrivi su WhatsApp, hai mai sofferto della gelosia 2.0? Il punto è proprio al contrario, donna Sara, carissima, e vorrei rispondere quindi anche alla lettera di Paola. Il punto è al contrario, è non essere gelosi, ma generare gelosia. Giusto. Questo è il trucco. Questa lettera, bellissima, mi ha fatto venire in mente la scena di un film. La verità è che non gli piace abbastanza, che già il titolo, insomma, è indicativo. Io rimpiango i giorni in cui c'era solo un numero di telefono e una segreteria telefonica. E in quella segreteria telefonica c'era una cassetta, e su quella cassetta o c'era un suo messaggio o non c'era. Adesso invece devi correre a controllare tutti i portali solo per sentirti rifiutata da 7 tecnologie diverse. È stressante. E c'ha ragione, no? Assolutamente. Ma si può rinunciare a un amore per un'ossessione? Dice me? Sì. Allora, così come alla donna compete la gelosia, all'uomo compete la malinconia, l'ossessione che cos'è? È come la fissazione. E la fissazione è peggio della malattia, quindi la fissazione lasciamola agli altri, e vince sempre l'amore. Bello. Io mi sto sciogliendo. Voi all'ascolto, avete il coraggio di raccontarci le vostre debolezze? Insomma, queste ossessioni che non dovrebbero esserci ma ci sono? Scriveteci a mix24@radio24.it. Tutti i venerdì ne parleremo alla posta del cuore. O se invece volete chiacchierare, chiamateci all'800 24 00 24. E per chi volesse approfondire il tema dolente della gelosia, da oggi abbiamo il nostro hashtag, la posta del cuore, con una riflessione che sta arrivando di Roland Barthes. E invece io ho un mio consiglio concreto, come noi donne riusciamo a essere ogni tanto. Prendi il tuo cellulare, cara Paola, vai su WhatsApp, apri le impostazioni della chat, vai su avanzate, vedi la data e l'ora dell'ultimo accesso? Bene, clicca, disabilitato. Sei libera, Paola! In bocca al lupo! Ma abbiamo inaugurato. Andiamo avanti. Ma voi siete sicuri? Andiamo, sì, con canzone. Tu no? Io sono praticamente bagnato di Nutella, miele. È una cosa terrificante. Beh, ma è venerdì, dai, per il weekend. Sì, ma tutto quest'amore fa male. Fa male, sì. Vabbè, è vero. Così. Speriamo che sia più tremendo le prossime settimane. Intanto, il canzoniere. Occhio d'aquila, gamba di cicogna, denti di lupo, baffi di spinoso, alla canaglia grattano la rogna. Occhio d'aquila, gamba di cicogna, hanno un cappello vecchio di vigogna. e ne coprono le piume il feltro roso. Questi sono i cadetti di Guascogna, di Carbonello, di Castel Geloso. Mix 24. Mario, una domanda che viene dal nostro ascoltatore. Parla Draghi e brucia 220 miliardi. Come mai? Ma la dico alla Tognazzi. Una grandiosa supercazzola dei mercati ieri. Cioè, una cosa ridicola. Infatti adesso... Hanno giocato? Certo. Infatti adesso c'è il titoli, volete i titoli dell'agenzia su questo? Le borse rimbalzano. Cioè, fa morire da ridere. Non c'era niente ieri. Cioè, non è cambiato un fondamentale rispetto a un giorno prima. Hanno giocato? Hanno giocato, c'è un po' di tensione perché effettivamente la guerra, la battaglia navale in Europa esiste, la Francia, la Germania, l'Italia che è un certo, sono tutti incerti, nessuno ha trovato la ricetta sul da farsi. Una sola cosa è certa, Draghi ha una proposta, gli altri quale hanno? Non ne hanno nessuna. E quindi già un passo avanti, la bolla. Doch das Messer. La musica è dolce, lei è Ute Lemper. Parliamo di tedeschi in maniera meno dolce, anche per dire che insomma la loro mitica efficienza si scontra poi con la realtà militare. E lì non sono molto efficienti, c'è un rapporto della difesa assai inquietante che leggevo stamattina. Tu dirai, non avevi di meglio da fare, devo pur lavorare per Mix 24, no? Certo. E insomma, hanno 83 elicotteri da trasporto truppe e se ne possono levare in volo soltanto 16. Hanno 56 aerei militari e in realtà ne funzionano soltanto 26. Questi se vogliono fare politica estera non gli bisogna basta che cambi. Non gli basta l'economia, bisogna che cambi, anche perché prima o poi tutto quello che stanno facendo finirà. Salamino. Serrato il dibattito all'interno dei due maggiori partiti che, se non sono alleati, di sicuro sono appattati e inciuciati. Allora, proprio duro. Noi duri coi volti scuri. Ogni re ha i suoi ribelli. Allora, D'Alema e Bersani sono contro Renzi. Capezzone va contro Berlusconi, ma soprattutto a Raffaele Fitto non resta altro che questo. Fuggire da quella casa, perché ieri fu tregenda. Berlusconi non ne può più del dissenso, vuole cacciare Fitto e tenersi Fitto il partito. Tutto cambia, non c'è più il caro Umberto Scapagnini, ma la farmacologia resta. Si chiama Rudy Cavagnoli, lo sapevi Mario? È il nuovo amico di, non in quel senso, il nuovo amico di Francesca Pascale. E questa è la nuova musica all'interno del cerchio magico. Fanno fuggire il povero Fitto, ma s'apre la farmacia. Noi duri, coi volti scuri, scuri. Insomma, sono duri, il dibattito è serrato e qui... Il colpo di scena. Colpo di scena. Sapete chi? Non è tanto Rasputin, non è tanto un demiurgo, non è tanto qualcuno che possa incutere paura, bensì Giovanni, sai chi è l'asso nella manica nel futuro del berlusconismo? Un nuovo genio della politica? Sì, un cake designer. Chi? Cake. Sta sfilando a Parigi. Che fa torte. Insomma, bravo. Tutto fa torte. Tutto sta nel cake. Ma finirà a torte in faccia. A cake tutto in faccia. Tutto sta nel cake. Praticamente è un povero uomo, un pasticcere che è stato rovinato dal linguaggio. Ma non è possibile. Ora si chiama cake designer. Ma soprattutto... Edoardo, hai indovinato, Edoardo da Bergamo. È per te, Pietrangelo. Buongiorno. Edoardo, dica. Cyrano di Bergerac di Lostand. Giusto, Renzi. Dov'è lei a Bergamo? Che fa? A casa, in macchina? Sono in macchina, sì. Dove sta andando? Sto andando... Sono in giro per lavoro. E che lavoro fa? Però l'avvocato non ha detto dove sta andando. Non mi ha detto dove sta andando, ha paura di sua moglie. Sono in giro per lavoro. No, uno che conosce Cyrano de Bergerac ha dei luoghi giusti dove andare. Sto andando in tribunale, quindi proprio va bene. Meno piacevole dal mondo. Fa l'avvocato? Sì. Ah, va bene. Sotto allora, processo? No, va un processo. Allora auguri, grazie. Il 3 ottobre del 1990 la Germania tornava a essere unita, oggi è l'anniversario, oggi attraverso le voci dei protagonisti noi ripercorreremo quei momenti che hanno cambiato la storia del mondo. Ma intanto ascoltiamo al microfono di Marina Milone cosa dice Ciriaco De Mita, che in quel momento era primo ministro in Italia. Se lo aspettava questo cambio improvviso del mondo? Beh, in un certo senso sì. Quando lo ha capito esattamente? L'ho capito in seguito ad una conversazione che ho avuto con Gorbaciov. Nell'88, quando conversando molto cordialmente in una cena a casa sua, nella dacia sua, si pose il problema del valore della tradizione marxista. La moglie difese con grande vigore la tradizione. Lui la interruppe, mi guardò e poi disse: sa, mia moglie è filosofa, ma l'uomo senza spiritualità che cos'è? Fu un segnale che, come dire, le ragioni dell'equilibrio mondiale dovevano cambiare. Andreotti diceva: amo talmente la Germania che ne preferisco due. Vista oggi, aveva ragione? Aveva torto. Ecco, subito dopo il giornale radio racconteremo la storia di quella giornata, la giornata in cui è caduto il muro di Berlino ed è cambiata la storia.